Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho sentito l'incredibile, per non dire indicibile, intervento di Don Giorgio De Capitani, il prete che definisce farabutti e criminali soldati italiani morti a Kabul. E ho letto il blog di Don Farinella, un altro prete che critica la presenza dei soldati italiani in Afghanistan e definisce inutili le loro morti. Penso che questi due sacerdoti dovrebbero ritornare all'ABC del cristianesimo e ripassarsi un po' di catechismo. Nei Vangeli e nel catechismo non si dice di abolire il servizio militare, ma di essere portatori di pace, e spesso, purtroppo, per difendere la pace occorre l'esercito. Sembrerebbe una contraddizione, ma invece non lo è. Infatti gli eserciti non servirebbero in un mondo senza peccato, ma siccome nel mondo vige il peccato, spesso purtroppo per difendere la libertà occorre impugnare le armi. Ecco perché la Chiesa non ha mai sostenuto l'abolizione della vita militare, come vorrebbero Don Giorgio e Don Farinella. Addirittura Gesù nei Vangeli si rivolge ad un centurione romano, dicendogli di non aver mai visto una fede così grande in Israele. Forse i nostri due sacerdoti pensano di saperne di più di nostro Signore Gesù Cristo? Ci sono stati santi che erano dei militari, come San Martino, ufficiale dell'Impero Romano. Dispiace perché il sacerdote deve essere immagine di Cristo, che non è venuto sulla terra per condannare, ma per salvare, sacrificando la propria vita. Non mi risulta poi che questi sacerdoti si scaglino con la stessa veemenza contro il crimine dell'aborto legalizzato, che è stato ed è una guerra contro innocenti. In 30 anni di aborto legalizzato, nel mondo ci sono stati più di 1 miliardo di bambini uccisi nel grembo materno. Per tali motivi, non mi sembra che questi due sacerdoti si trovino sulla stessa lunghezza d'onda di Gesù Cristo. Lettera firmata. Dicono che in Italia non ci sia libertà di stampa. E com'è che per mesi ci hanno fatto leggere nei più intimi particolari notizie pruriginose sulla più alta carica dello Stato? Com'è che sono state sacrificate foreste intere per stampare carta piena di pettegolezzi più o meno veritieri? Com'è che ci hanno sfinito a furia di scrivere di tutto e ci hanno fatto venire a noia la lettura dei giornali? Cosa vorrebbero poter scrivere alcuni giornalisti? Cosa mai è stato loro negato? Cosa non si è detto? Andranno in piazza a protestare? Ma potrebbero benissimo stare a casa a scrivere. Forse qualcuno dovrebbe spiegarlo anche a loro. La seconda puntata di Ballarò ha dedicato la prima ora di trasmissione nella litania degli attacchi a Berlusconi, ancora riferiti alle escort, a Noemi, ai soliti argomenti sviscerati e vivisezionati che ci hanno tenuto compagnia per tutta la primavera e l'estate. Non vogliono far calare l'attenzione. Non si sono ancora stancati di spiegarci perché non è gossip. E il professor Rodotà, che continua ad insistere su questi argomenti dall'alto del pulpito di essere stato garante della privacy. E meno male che lo era. Ma va bene così. Se con tutta la loro presunzione di essere migliori, i risultati ottenuti alle urne sono quelli che tutti conosciamo, che vadano avanti all'infinito. Non hanno ancora capito che queste aggressioni non pagano, che è di altro che i cittadini vogliono sentir parlare. C'è bisogno di freschezza di idee e non della vecchiezza di parole trite e ritrite. Giulia. Ma perché non facciamo un Santoro Channel a pagamento? Così chi lo ama può abbonarsi e tutti gli altri possono godersi liberamente gli altri programmi. Elisabetta, provincia di Vicenza. A proposito di raccolta di rifiuti porta a porta e degli incentivi a produrre meno rifiuti, credo che l'equazione cittadino attento uguale meno tasse non funzioni. Le amministrazioni pubbliche hanno dimostrato negli anni che a una riduzione delle spese non corrisponde mai una riduzione dei costi del servizio. Se, per esempio, domani per magia si dimezzassero i rifiuti in Italia, non potremmo licenziare nessun dipendente delle società di raccolta e i diritti di discarica raddoppierebbero. Ci sono troppi interessi da tutelare. Faccio un esempio ancora più immediato. Io sono sano, faccio sport, non fumo, non bevo alcol. Non faccio sport rischiosi o soggetti ad incidenti, eccetera. Eppure, a parità di reddito, pago esattamente le stesse tasse per il Servizio Sanitario Nazionale che paga un obeso, fumatore, alcolista e motociclista. È il sistema del calderone pubblico che non è in grado di distinguere i costi e le responsabilità per ogni singolo cittadino. Quando in Italia si introdurranno le privatizzazioni, per la sanità così come per la raccolta dei rifiuti, forse ciascun cittadino potrà contrattare con le proprie assicurazioni o i propri fornitori di raccolta rifiuti le condizioni migliori. Ad esempio, un fumatore potrebbe essere costretto dalla propria assicurazione a pagare premi più alti. Un sistema simile, anche se non completamente privato, è messo in atto dalla Svizzera. Lì funziona così. I sacchetti hanno un costo molto alto e sono divisi per tipologia, per cui il cittadino meno rifiuti produce e più li compatta, meno paga. Semplice. Certo, poi servono vigili che controllino a campione chi getta sacchetti non autorizzati. A Napoli magari inventerebbero i sacchetti finti, identici a quelli veri ma con un costo di un decimo. Marcello. Sono residente in Alto Pascio, provincia di Lucca, e ho una bimba di 6 anni. Finito l'asilo, alcune maestre mi consigliano di iscrivere la bimba alla scuola elementare del paese, richiedendo il tempo pieno. Altre famiglie sono state consigliate allo stesso modo e in molti abbiamo fatto richiesta. Alto Pascio non aveva ancora nessuna classe con il tempo pieno, ma una volta che tempo pieno è stato accettato da parte degli organi competenti, siamo stati chiamati dalla direttrice, che ci ha detto che gli iscritti al tempo pieno erano più di 30 e che quindi qualcuno di loro sarebbe stato escluso. Molti genitori, impauriti dalle parole dette in quella sede, hanno spostato i loro figli nella sezione a tempo modulare. Iniziata la scuola, mi sono trovato con la classe di mia figlia suddivisa in 8 italiani e 18 bambini di diverse nazionalità. Ho chiesto spiegazioni alla direttrice e la risposta che mi è stata data è che gli stranieri portano cultura. Ho fatto notare che il divario è un po' eccessivo e non capisco come mia figlia possa riceverla, questa cultura. Sono stato, per forza maggiore, costretto a cambiare scuola, perché non mi è stata data alcuna soluzione. Premesso che in questa scuola ci sono altre 2 classi senza presenza di extracomunitari, chiedo a voi se questa sia integrazione o emarginazione. Salvatore. Gentile direttore, già so che se mai questa lettera venisse letta, le sue reazioni al mio ragionamento sarebbero: è una forzatura, sono cose completamente diverse. Ma non avendo nessuno con cui condividere questi ragionamenti, li sottopongo a lei. Si fa un gran parlare di velo e diritto ad indossarlo e ci si chiede se sia il caso di varare una legge in proposito. Cosa diversa la posizione dell'onorevole Santanchè sull'esibizione del velo in manifestazioni pubbliche. Rimanendo sul privato, la mia esperienza di contatto con gli immigrati, al momento lavoro per la Regione Lombardia in questo ambito, mi ha portato al convincimento che il portare il velo sia una scelta innanzitutto culturale e di appartenenza alla comunità, prima che religiosa. Essere accettate, ecco cosa cercano le donne che lo indossano. Essere accettati, ecco cosa vogliono gli uomini che obbligano le donne a portarlo. Vengo al punto. Dove sta la differenza con la chirurgia estetica? Non è forse rivolta verso la comunità di appartenenza la scelta di rifare il seno, o le labbra, o il naso, a 18 anni? Non sono forse gli uomini a costringere, mi passi il termine, queste ragazzine a cambiare i propri connotati? Lei sa meglio di me quale dimensione economica e numerica abbia il fenomeno chirurgia estetica sulle adolescenti, molto più grande e importante rispetto al velo o al burka. È una forzatura, sono cose diverse, ne è sicuro. Manuel, provincia di Brescia. Caro Manuel, il suo ragionamento non è per nulla azzardato. Alla base c'è la posizione della donna nella società contemporanea, una posizione che ha 2 possibili e necessari punti di vista. Come le donne si sentono all'interno della società e come gli uomini vivono questa stessa presenza. Se partiamo dall'idea, che spero sia ampiamente condivisa, che non vi devono essere discriminazioni o disparità di diritti tra uomini e donne, il passo avanti che può e secondo me deve essere compiuto è riconoscere che le differenze, che nessuno può negare, tra uomini e donne siano un valore, un elemento che aiuta ogni persona e quindi la crescita complessiva della società. E se le differenze sono un valore, allora ancora di più è un valore d'identità, riconoscere a ciascuno la propria personalità e quindi insieme la possibilità di esprimerla. E allora il problema diventa anche quello del modello sociale, in cui ognuno deve essere e sentirsi libero, in cui ogni donna deve poter decidere con la massima libertà di portare il velo o di ritoccarsi il naso con la chirurgia estetica, ma deve essere altrettanto libera di non farlo. Thank you. Gentile direttore, ho 43 anni e sono padre fortunatissimo di un bimbo di 6 e di una bimba di 9. Mi chiedo, con paura, che razza di classe dirigente potranno incontrare i miei figli nel loro futuro di contribuenti e cittadini. Io noto una costante e inesorabile involuzione nell'integrità di chi ci rappresenta e il calo continuo dei votanti ad ogni tornata elettorale non fa che evidenziarne il problema. Sia chiaro, non ho saltato una sola elezione o referendum, ho cercato sempre di farmi un'idea e di perseguirla, ma quando vi è da scegliere tra il mediocre e il più che mediocre, ecco che la tentazione di mollare mi accompagna sempre più. Perdessero almeno di vista le battaglie personali a forza di scoop e falsi scoop, perdessero almeno di vista l'aggressività verso il nemico dichiarato, che sia il politico della controparte piuttosto che l'extracomunitario, che ha sostituito il meridionale solo perché avversare quest'ultimo non paga più in termini di coalizioni e non è più neanche di moda. Vorrei che invece, pur nei loro evidenti limiti, cercassero di trovare la forza per perseguire obiettivi e strategie comuni, orientate al bene e al benessere generale. Si chiede troppo, in fondo? Pasquale, provincia di Bergamo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.